Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come sappiamo, gran parte delle abitazioni nelle quali viviamo e degli uffici nei quali lavoriamo sono in realtà di bassa qualità dal punto di vista delle prestazioni energetiche e anche del comfort ambientale. Per esempio, alla prima ondata di caldo questi edifici di solito si surriscaldano rapidamente, cosa che non accadrebbe se fossero ben isolati e soprattutto se fossero dotati di sufficiente massa termica, cioè, diciamo così, di muri abbastanza massicci da essere in grado di accumulare il calore durante il giorno per poi cederlo di notte quando l'aria è più fresca. Per migliorare le prestazioni di questi edifici, in questi casi l'unica possibilità che di solito viene in mente è di intervenire sull'involucro. Invece a Patricia Ferro, architetto e ideatrice del progetto Smart Furniture, è venuto in mente di partire dai mobili. Buonasera Ferro. Buonasera. Allora, in cosa consiste la sua idea? Ci racconti. È abbastanza semplice perché ho pensato che un materiale che ormai si usa in edilizia, che ha la capacità di trattenere e accumulare moltissimo calore, fosse utilizzato direttamente nei mobili. Si tratta fondamentalmente di materiali che cambiano fase. Un cambiamento di fase significa un assorbimento di moltissima energia per poi rilasciarla quando quella temperatura, cambiamento di fase, cambia. Ecco, facciamo un esempio così tutti capiscono. Quando noi mettiamo la pentola dell'acqua sul fornello per fare la pasta, impieghiamo magari un quarto d'ora per portare l'acqua da 20 a 100 gradi, ma poi quell'acqua può impiegare delle ore ad evaporare, no? Quindi il cambiamento di fase è un momento in cui i materiali rilasciano o assorbono tantissimo calore, no? Si tratta del cosiddetto calore latente, certo. Cioè il calore sensibile è quello che è quando inserisco un elemento che riscalda, aumenta di temperatura. Poi c'è il calore latente, io continuo a inserire energia, però il materiale cambia fase. In questo caso il materiale che noi abbiamo utilizzato cambia fase alla temperatura di comfort, cioè alla temperatura di 21 gradi, potremmo dire, in inverno. Quindi quando la temperatura del mio spazio aumenta e va supera praticamente i 21 gradi, il materiale inizia a assorbire il calore, quindi io sono in comfort, il mio ambiente non va in surriscaldamento e durante la notte, quando la temperatura scende al 17-21, il mio materiale inizia a rilasciare il calore, quindi lasciando la temperatura quasi costante all'interno dell'ambiente. Ecco, questi materiali, dicevamo, sono materiali che si usano già peraltro anche in edilizia o si cominciano ad utilizzare, però voi li avete messi dentro nei mobili. Allora, ci spieghi intanto come ce li avete messi dentro e anche che materiali sono. Allora, in particolare si tratta di paraffine, questo materiale, sono dei paraffine che uno seleziona la temperatura a cui vuole che cambi fase. Noi le abbiamo introdotto, queste paraffine, all'interno dei spazi vuoti creati nei mobili. Ci sono già due prototipi in vendita che sono stati fatti in legno, e all'interno hanno proprio questo materiale. Delle cavità. Che cambia fase a 22 gradi. Okay. Poi la nostra ricerca sta andando verso altri settori, quindi analizzando con altri partner la possibilità di inserire all'interno dei laminati piuttosto all'interno dei metalli e così via. Una cosa importante da dire è che la ricerca è stata praticamente portata avanti perché i primi risultati sono stati molto promettenti. Abbiamo simulato un intero praticamente piano d'ufficio di 1000 metri quadri a Milano. Abbiamo simulato come se tutto l'arredamento fosse stato dotato da materiale a cambiamento di fase. Abbiamo ottenuto dei risparmi durante la stagione estiva di circa 27%, piuttosto che durante l'inverno di all'intorno dei 10%, che è un numero veramente notevole. Dover intervenire nell'involucro insomma è una roba assolutamente notevole. Diciamo però che questo edificio di Milano aveva delle caratteristiche peculiari, particolarmente diciamo problematiche durante la stagione estiva, no? Che forse però è proprio il posto dove dovete concentrarvi voi. È un edificio molto moderno con facciate completamente vetrate, come quelle che adesso vediamo anche lì a Porta Garibaldi, né più né meno. Cioè tutti questi edifici, ormai il vetro è qualcosa che viene proposto in tutti i grandi edifici per semplicità, per leggerezza, per velocità di posa, solo che si porta sempre con sé questo maledetto effetto serra in questo caso. Quindi questo materiale, aumentando l'inerzia termica dell'edificio senza intervenire dalla parte di questa struttura, ci porta domani un architetto poter continuare a usare il vetro, ma assicurare un comfort interno non dato dall'edificio stesso, dalla struttura, ma dato dai mobili. Quindi in questo caso il mobile entra a pieno titolo nel mondo dell'efficienza energetica. Va bene, grazie, grazie Patricia Ferro. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.